Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti a questa ultima puntata del ciclo Bene Comune di Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, sono Camilla. Io sono Stefano e Sara purtroppo. Purtroppo oggi stasera non c'è. Manca, però vedremo di arrangiarci noi due. Volevamo concludere questo ciclo appunto sul bene comune parlando delle associazioni universitarie dell'università. Questo perché? Questo perché noi come studenti, come membri dell'associazione, un'associazione studentesca come il presidio di universitario di Libera, riteniamo che comunque sia l'università sia un bene comune degli studenti, dei professori, che debba essere in qualche modo tutelato. Sì, tutelato e fatto vivere oltre la didattica sostanzialmente. Esattamente. E infatti secondo noi molte associazioni studentesche, speriamo tutte, si adoperano al fine di dare un'offerta in più all'interno di questa università. E anche l'università da canto suo bisogna dire che dà una mano in questo senso, perché comunque si organizza un bando e ogni per finanziare anno, queste per associazioni. Finanziare queste associazioni ogni anno da diverse centinaia di migliaia di euro. Esatto, suddivise per quante associazioni circa, Ste? Ne ho contate circa una quarantina di associazioni. Ottimo, sì, che provengono un po' da tutte le facoltà dell'Università di Bologna. Sì, provengono un po' più o meno da tutte le facoltà e alcune sono anche trasversali, come esatto, per esempio interdisciplinari. La nostra raccoglie studenti un po' da ogni facoltà. E direi che oggi per questa puntata abbiamo due ospiti, Silvia Mattei del SISM e Vito Bernardo dell'associazione L'Altra Babele. Bene, possiamo cominciare con le interviste. Abbiamo qui con noi Silvia Mattei del SISM. Ciao. Benvenuta Silvia, ciao. Ciao, ciao. Ciao, e possiamo cominciare con le domande. La prima domanda che vi facciamo è: cos'è il SISM? Come è nato? Allora, innanzitutto il SISM è il Segretariato Italiano degli Studenti di Medicina ed è un'associazione apartitica che appunto senza discriminazioni di religione, di professione, orientamento sessuale, eccetera, e nasce da studenti di medicina per studenti di medicina. E il SISM nasce a Bologna, proprio qua, e siamo circa alla fine degli anni 60. Poi in realtà il SISM è un'associazione che si è espansa a tutto il livello nazionale, tanto che oggi è presente in ben 37 sedi su tutto il territorio italiano, nelle facoltà appunto di medicina. Una 38ª, che è la facoltà di medicina di Ancona, è in fase sperimentale. Il SISM si compone appunto di studenti di medicina e di fatto è un'associazione no profit, quindi di volontariato, e all'interno diciamo che è suddivisa e suddivisibile in varie aree, ognuna delle quali si occupa di attività di diverso tipo. E adesso le potrei elencare brevemente: abbiamo la SCORA, che è l'area di salute riproduttiva e AIDS, l'area della SCOF, che si occupa di salute pubblica, l'area degli scambi internazionale, detta SCOPE o SCORE, per il fatto che sono sia degli scambi diciamo professionalizzanti ma anche di ricerca, l'area della SCOME, che si occupa di pedagogia medica, e l'area della SCORP, che è quella dei diritti umani e della pace, che è quella di cui io faccio parte e di cui mi occupo, ognuna della quale poi ha diciamo si prefigge di portare avanti vari progetti che all'interno degli anni e anche sul territorio nazionale sono coordinati, quindi non sono fini a se stessi ma hanno una vera e propria distribuzione sia nel tempo, quindi prospettica, sia a livello di spazio, cerca di rendere i progetti nazionali. C'è dunque un progetto di ampio respiro, mi sembra di capire. Ma sì, vi esatto. Chiederemo come seconda domanda quali sono le attività concrete nello specifico che l'associazione del SISM di Bologna ha portato avanti, diciamo, in questo anno accademico. Esatto, allora innanzitutto dobbiamo dare importanza all'attività degli scambi, perché è proprio così che è nato il SISM. Infatti il SISM fa parte dell'IFMSA, che sarebbe l'Associazione Internazionale, la Federazione Internazionale degli Studenti di Medicina. Quindi ogni anno 40 studenti da Bologna partono per paesi associati in tutto il mondo, che può essere dal Kuwait al Perù alla Tunisia, e 40 studenti arrivano, e quindi questa è una delle attività focali. Dopodiché ci sono attività di vario tipo, alcune rivolte anche alla popolazione, come per esempio la giornata mondiale contro l'omofobia, la giornata contro la violenza sulla donna, la giornata per la prevenzione del diabete. E attività invece che riguardano prettamente, come dicevo prima, la pedagogia medica, quindi vengono organizzati corsi di prelievo. Questo per il fatto che appunto gli studenti spesso, prima di entrare in tirocinio, che si fa alla fine del terzo anno, hanno bisogno un po' di toccare con mano, vengono organizzati dei corsi di tuture. Quest'anno abbiamo iniziato un progetto che si chiama Famulus Nursing sulla linea delle università francesi e tedesche, quindi una sorta di tirocinio infermieristico. E poi vengono anche un'attività, un progetto importantissimo e molto bello che qua a Bologna si chiama LabMond ed è il laboratorio di mondialità, e un nostro obiettivo sarebbe proprio quello di portarlo appunto in sede bolognese, perché fino adesso è stato, diciamo, ogni anno in una sede diversa, per i prossimi anni. Ok, e per il futuro avete in mente cose sulla falsa riga o anche delle novità? Cercate di fondamentalmente di espandere le vostre attività. Allora, innanzitutto c'è questo progetto che riguarda il laboratorio di mondialità, che quest'anno ha raccolto numerosissimi studenti dalle varie sedi italiane, ed è un progetto appunto improntato sulla salute pubblica, sui determinanti, le disuguaglianze sociali, appunto legate alla disciplina, e ci piacerebbe portarla a Bologna proprio annualmente. Dopodiché si hanno in mente sia dei progetti nuovi, per esempio un progetto che riguarda la medicina complementare e dei laboratori sull'agopuntura, la medicina cinese, eccetera, e anche, diciamo, sull'onda di quello che già le altre università stanno facendo. Infatti, 3 settimane fa la delegazione bolognese è stata a Catania, dove si è svolto uno dei congressi nazionali annui, e lì abbiamo preso un po' spunto, e proprio dai progetti che ci riproponiamo di presentare l'anno prossimo, uno riguarda quello di insegnare la sanità pubblica, i determinanti sociali, le disuguaglianze sociali, per dirne gli asili, il progetto che prenderà il nome di La Isla, oppure qualche conferenza che riguarda mafia e sanità, proprio sull'onda di quello che già altre sedi stanno facendo, e così come noi guardiamo loro cercando di migliorarci, loro guardano noi, tanto che un nostro progetto ha proprio vinto la Project Fair, si chiamava questa mostra e questo concorso tra i vari progetti nuovi presentati quest'anno. Vi chiederei per finire se il SISM collabora e se sì in che misura con altre associazioni studentesche, ma in generale con altre, diciamo, associazioni di volontariato del territorio bolognese. Appunto, a seconda delle varie aree e quindi a seconda dei vari progetti, prende relazioni e quindi collabora con diverse associazioni. Per esempio, mi viene in mente quella col QAM, oppure per quanto riguarda quello di cui parlavo prima, quindi eventuali conferenze, e per quanto si potrebbe affrontare il tema della mafia in sanità pubblica, mi viene in mente sicuramente una collaborazione con Libera qua di Bologna. E inoltre, per quanto riguarda i progetti in area pubblica, il progetto che si chiama Donarsi, che quest'anno ha avuto tantissimo successo, prevede la collaborazione con ADMO, per l'associazione per la donazione di midollo osseo, tanto che per la prima volta più di 130 ragazzi hanno fatto il test di latifizzazione quest'anno proprio qua al Sant'Orsola, per un'eventuale donazione di midollo, e poi anche con ADS per la donazione del sangue. E poi di sicuro non ci tiriamo indietro per quanto riguarda future ed eventuali collaborazioni, per rendere anche diciamo il nostro operato il più multidisciplinare e il più trasversale possibile. Certo, okay. Mi sembra molto interessante, noi facciamo i nostri auguri. Ti ringraziamo per l'intervista. Grazie Silvia. E se ci vuoi lasciare con una canzone? Sì. Visto che siamo tutti in sessione, stiamo per entrare nella sessione estiva. Mannaggia! Davvero, pensavo a una canzone che sia un po' d'auspicio. Speriamo. Vedremo dei giorni bui, e invece io pensavo lancerei Better Days, Edward Shape and the Magnetic Zero, augurando a tutti dei bei giorni nonostante il peso dello studio. Speriamo. Speriamo. Vedremo anche fare. Ok, grazie. Ciao. Ciao. Ciao. I seen better days dripping down your face. We don't have to talk. Let's dance. That's so- Siamo adesso in collegamento con Vito Bernardo, responsabile dei progetti sociali dell'associazione L'Altra Babele. Ciao Vito, benvenuto. Ciao, buonasera. Senti, dunque, abbiamo preparato un po' di domande per te per conoscere meglio la vostra associazione e i vostri progetti. Dunque, per iniziare ti chiederei, L'Altra Babele, ho letto insomma sul vostro sito, nasce 10 anni fa come associazione studentesca, ma ben presto diventa uno spazio di incontro e condivisione con l'intera cittadinanza. Come è avvenuto in questi anni il passaggio? Beh sì, noi siamo nati come collettivo studentesco di facoltà, poi quest'anno compiamo 10 anni, nel 2004 ci siamo costituiti associazione e da quel momento, dalla rappresentanza studentesca in facoltà, abbiamo incontrato nuove persone, nuovi studenti, siamo diventati associazione di Ateneo e quindi ci siamo affacciati un po' ai temi cittadini. È accaduto un po' per caso, perché ci fu un bando del Comune di Bologna nel 2005 dove si chiedeva alle associazioni studentesche di fare delle iniziative in zona universitaria per contrastare il degrado. Noi partecipammo a questo bando e da quel momento abbiamo, in quel momento abbiamo avuto il primo approccio al, alle attività sociali cittadine, abbiamo iniziato a sperimentare il concetto di cittadinanza attiva, di partecipazione, di integrazione degli studenti nella città, e in quell'occasione inventammo l'asse delle biciclette, insomma si costituì un cartellone di 15 giorni di eventi curato da una rete di associazioni di cui noi eravamo capofila, ma erano circa 10 associazioni studentesche. L'esperienza ci piacque molto e quindi da quel momento l'associazione ha assunto un po' una connotazione diversa, perché si sono avvicinate con quell'esperienza lì studenti interessati a questi temi all'interno dell'associazione. Ci fu, toccammo proprio con mano il valore di realizzare un'iniziativa che poi ti produce un risultato immediato, insomma realizzare un evento in piazza. Fu, via Zamboni fu chiusa al traffico, all'epoca era aperta al traffico, le macchine circolavano, piazza Scaravilli fu svuotata dalle auto e ci allestimmo un palco per dei concerti per diverse serate, e quindi insomma fu un'esperienza bellissima da cui poi è nato tutto un percorso di interesse verso i temi della città. Abbiamo continuato con l'asta delle biciclette da subito. Mi ricordo la prima asta di biciclette, noi temevamo non venisse nessuno, invece ci fu talmente tanta partecipazione che organizzammo immediatamente dopo, tipo 5 giorni dopo, una seconda asta di biciclette per accontentare tutti quelli che non avevano avuto la bicicletta nella prima occasione, insomma. Beh, e quindi poi l'asta di biciclette ci ha portato ad essere presenti costantemente sul tema della recitazione delle biciclette, ad avvicinare ai temi sociali, e da lì siamo diventati prima associazione interfacoltà e poi associazione di promozione sociale a tutti gli effetti, perché man mano che gli studenti si laureavano e comunque mantenevano questa passione per i temi cittadini, l'associazione ha assunto una connotazione un po' ibrida, quindi un po' studentesca, un po' non più studentesca, fatta da ex studenti, e quindi oggi siamo di fatto una realtà che opera nel territorio cittadino e che fa dell'integrazione degli studenti fuori sede in città e della promozione della culturalità sostenibile, della cultura delle opportunità, del terzo settore in generale, un po' le sue bandiere, per cui operiamo non solo in università ma in tutto il territorio. Ecco, mi sembra una buona strategia per dare continuità, insomma, ai membri della vostra associazione. Senti, vi chiederei poi, tra i vari progetti di cui vi occupate, corsi, laboratori, appunto, eventi culturali e concerti, uno mi è sembrato centrale nella vostra attività ed è quello della mobilità in bicicletta. Ho partecipato, posso dirlo con orgoglio, è stata una bellissima esperienza, all'ultimo Bike Pride che si è tenuto l'11 maggio di quest'anno. Perché la bicicletta? Tanto sono contento che tu sei venuto a Bike Pride. Il Bike Pride è forse l'iniziativa più bella che facciamo sulla bicicletta. Un po' come tutte le cose, insomma, è venuto lì per caso. L'asta delle biciclette è stata un'idea casuale. Eravamo lì a pensare le attività per riqualificare la zona universitaria, è saltato un ragazzo di medicina che chiamavamo tutti Polpetta e disse: ma perché non facciamo un'asta di biciclette che così contrastiamo i ladri? L'idea piacque ovviamente a tutti e quindi siamo partiti da lì. Da lì nessuno di noi aveva nessuna nozione sulla bicicletta, nessuna passione particolare, insomma. E questa iniziativa è cresciuta nel tempo, funzionava tanto, ci piaceva farlo e quindi abbiamo piano piano ci siamo appassionati, si sono avvicinate persone già appassionate alla bicicletta e si è sviluppato poi tutto un percorso sulla bicicletta. Cosa avete in cantiere? Facciamo mille cose. Diciamo che la mobilità sostenibile è un'area di intervento. Noi facciamo corsi e laboratori di riparazione biciclette per studenti universitari, per insegnare a riparare la propria bicicletta. Facciamo le attività di riparazione assistita in strada, l'asta delle biciclette, ma anche la riparazione assistita, cioè le persone potranno venire con la propria bicicletta e ripararsi la bicicletta gratuitamente, aiutati da noi, perché il concetto per noi è trasmettere la passione, trasmettere la conoscenza di questo incredibile mezzo che dal nostro punto di vista rappresenta in ogni modo il futuro, oltre che essere stato un importante mezzo del passato. Per cui insomma è nata in associazione una passione che si è sviluppata nel tempo e oggi non c'è un motivo particolare, è semplicemente una grande passione che tutti noi abbiamo, tutti i soci dell'associazione hanno, quasi tutti, e quindi la coltiviamo a 360 gradi. Andiamo anche nelle scuole a riparare biciclette, a insegnare ai bambini delle scuole come si ripara la bicicletta. Facciamo delle biciclette in città, portiamo i bambini, abbiamo fatto una biciclettata l'anno scorso da San Donato, la scuola Sassi, quindi che si trova al quartiere Pilastro, fino a Casalecchio. I ragazzi hanno fatto 24 chilometri, ragazzi di prima, seconda e terza media. È stata un'esperienza bellissima, ragazzi, almeno da quello che poi hanno detto, i commenti e le risposte ai questionari di valutazione che le abbiamo fatto, erano molto molto contenti di questa iniziativa. Insomma, promuoviamo la bicicletta un po' ovunque e con ogni mezzo possibile, ecco. Come ultima domanda, volevamo chiederti, in base alla vostra esperienza, che sicuramente credo che sia molta a livello associazionistico, volevamo sapere qual è secondo voi il peso reale, concreto dell'associazionismo e del volontariato di oggi e qual è il loro contributo allo sviluppo e al cambiamento della città, sia in ambito sociale che culturale. Ma l'impressione che forse segna nell'immaginario collettivo è che le associazioni contino poco o nulla. In realtà, secondo me, le associazioni hanno un grandissimo valore, un valore sociale, un valore aggregativo, un valore anche di proposta. Cioè, l'associazionismo è quello strumento che permette a tutti i cittadini di poter partecipare alla vita civica, alla vita sociale, di poter fare proposte alle amministrazioni, di poter fare un progetto da protagonista, per cui sono davvero uno strumento formidabile da questo punto di vista. E sono anche un grande laboratorio, una grande cucina di idee. Cioè, persone che ieri non avevano nessun interesse, pensavano a studiare e a fare insomma la propria carriera universitaria, venendo in contatto con noi perché magari erano amici di un nostro socio, frequentandoci per caso una volta, due, tre, alla fine si sono ritrovati ad essere soci e talvolta coordinatori di progetti, perché l'associazionismo permette proprio di stimolare la curiosità e anche la voglia di mettersi in gioco, per cui per esempio il primo Bike Pride, l'iniziativa a cui che abbiamo citato prima, eravamo in quattro gatti a organizzarla e parteciparono circa 200 persone. L'ultimo Bike Pride eravamo volontari più di 100 e alla manifestazione c'erano oltre 2000 persone in bicicletta. Non è cresciuto per caso, è cresciuto perché un laboratorio ti permette di coinvolgere le persone, di interessarle, di farle crescere, di costruire anche in qualche modo una, oltre che una coscienza, anche un pensiero politico, sociale, insomma, e quindi costruire un senso civico, dare, secondo me hanno un grandissimo valore, insomma. Direi non è da trascurare neanche l'aspetto economico, perché le associazioni poi creano anche economia attraverso il volontariato. Direi un grande contributo allo sviluppo, insomma, di nuove sensibilità. In chiusura, Vito, ti chiediamo di consigliarci un pezzo musicale da ascoltare. Qual è quello che hai scelto per noi? Beh, abbiamo parlato molto di biciclette. C'è un gruppo che ha fatto la storia, che sono i Queen. Loro hanno fatto una canzone che si chiama Bicycle Ride e io consiglierei quella. Perfetto. Perfetto. Noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Salutiamo gli ascoltatori e ci risentiamo. Buon ascolto. Buon ascolto. Ciao. Ciao. Grazie mille a voi. Buona serata. Ciao. Ciao. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. What I wanna do is Kane. You said John. I said Wayne. Hot dog. I said Cooler Man. I don't wanna be the president of America. Six miles. I said cheese. Johnny A. I said please. Income tax. I said Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam. I wanna gain. 'Cause all I wanna do is.